639. Torta di ricotta. Questa torta riesce di gusto consimile al budino di ricotta numero 663, ma più delicata, ed è il dolce che si imbandisce di preferenza alle nozze dei contadini in Romagna e che per merito può dar molti punti a tanti dolci raffazzonati dai pasticceri. Ricotta grammi 500, zucchero grammi 150, mandorle dolci grammi 150, dette amare numero 4 o 5, uova intere numero 4, rossi numero 4, odore di vaniglia. Si prepara come il detto budino numero 663. Ma le mandorle, dopo pestate con una chiara d'uovo, è bene passarle per istaccio. Ungete abbondantemente una teglia con lardo e rivestitela di una sfoglia di pasta matta. Numero 153. E sopra la medesima versate il composto alla grossezza di un dito e mezzo all'incirca, cuocendolo fra due fuochi o nel forno. Raccomando il calore moderatissimo e la precauzione di un foglio sopra unto col burro, perché la bellezza di questa torta è che sia cotta in bianco. Quando sarà ben ghiaccia, tagliatela a mandorle in modo che ogni pezzo abbia la sua pasta matta, sotto la quale si mangia o no, secondo il piacere d'ognuno, essendosi essa usata al solo scopo di ornamento e di pulizia. Potrà bastare per 12 o più persone.